Viaggia con la mente e scopri non solo turisti.it, il portale dedicato a chi ama viaggiare. Destinazioni, interviste, consigli per chi ama scoprire il mondo. www.nonsoloturisti.it. Bruno Mars ad aprire l'appuntamento di oggi del viaggio di questa sera su Radio Stonata. Ritorniamo appunto in diretta e come ogni sabato sera a farci compagnia un amico o un'amica di nonsoloturisti.it. Questa sera troviamo per la prima volta in diretta qui su Radio Stonata Cecilia. Ciao Cecilia, buonasera e benvenuta. Grazie, ciao a tutti, ciao Beppe. Allora, come ho detto, sei nuova della puntata del viaggio, no? Di questa sera, una nuova non solo turista, quindi ti andiamo a scoprire un po'. E la domanda classica che faccio a chi viene in diretta da non solo turisti per la prima volta è: come hai conosciuto la banda di non solo turisti, Marco Allegri e tutta la ciurma? Ma come loro hanno conosciuto me, perché di verità io avevo anni fa, si parla del 2012, avevo aperto un piccolo blog di viaggi in cui scrivevo così, mi divertivo un po' a scrivere dei miei viaggi e ho iniziato a pacioccare su Twitter, su Facebook e così via e poi sono stati loro a contattarmi, probabilmente devo aver toccato qualche tasto che piaceva e quindi mi hanno chiesto di far parte diciamo dello staff, dei collaboratori. E quindi ho iniziato a scrivere all'inizio molto poco perché ero un po' timorosa di pubblicare cose mie e dopo invece pian piano ho preso la mano e quindi sono finita anche qui per la prima volta alla radio, anche se non l'avrei mai detto sinceramente. Perché, però... Su una web radio per giunta, quindi sul esatto. Web. Continuiamo. Esatto. E poi la cosa che quindi c'è questo tuo sito che si chiama Parole di Viaggi, no? Sì. Sì, esatto, Parole di Viaggi. E che cosa racconta questo sito invece, che sono curioso? Allora, come dice il titolo, racconta di viaggi. Poi io ho sempre amato vedere il viaggio non solo come viaggio turistico, ma proprio come viaggio all'interno della vita. E quindi raccontare come affronto e come si potrebbero affrontare qualsiasi tipo di qualsiasi situazione di vita, qualsiasi circostanza in cui la vita ci mette di fronte. Quindi ci sono sia i viaggi, perché è una delle mie grandi passioni, proprio il viaggio e lo sport, sia appunto situazioni più quotidiane che per me comunque rappresentano sempre un po' la tematica del viaggio. E, quindi fondamentalmente sì, diciamo, è un sito in cui è un blog in cui spazio, diciamo, da tematiche molto differenti l'una dall'altra. E prima, fuori onda, ti ho letto una frase della tua presentazione appunto sul tuo sito Parole di Viaggi e sai, mi ha colpito pure un'altra frase che è quasi a conclusione: amo viaggiare, partire con il mondo davanti agli occhi e tornare con il mondo sulle spalle, nelle gambe e nel cuore. Sì. Sì, perché allora vabbè, la mia idea di viaggio è zaino in spalla, ci si arrangia con poco e soprattutto si sta a contatto con le persone, con i locali e quindi per me viaggio è grande occasione per imparare dal mondo e quindi ho scritto diciamo quella frase lì nella mia presentazione perché per me è proprio quello. La mia idea è partire con la valigia vuota, ma vuota nel senso senza aspettative, senza aver organizzato troppo e lasciarmi stupire e vedere poi come torno cambiata quando torno a casa, quindi che cosa imparo, che cosa mi porto dietro e non solo nel cuore e nella testa, ma proprio anche come esperienze di vita, come cose che imparo in qualsiasi contesto. E poi io sono maestra, quindi per me è la fonte principale da cui poi prendo ciò che poi utilizzo in classe con i miei bambini, quindi gli strumenti che poi utilizzo per insegnare e trasmettere ai bimbi. Quindi. Cecilia, proprio nell'articolo che questa sera sei venuta a raccontarci, che è scritto su nonsoloturisti.it, che è appunto il tuo viaggio in Islanda, è un lasciarsi un periodo di stress alle spalle, mi pare di aver capito da quello che scrivi, vero? No, sai perché te lo dico? È una domanda che in realtà è una domanda che faccio a me stesso e vorrei anche trovare una risposta. Perché pure io sto passando, lavorativamente parlando, un periodo molto stressante in cui dico, mamma, ho bisogno di staccare. Però non ci riesco, perché poi arrivano i fini settimana, ci provo, però non lo faccio. E in realtà poi tu nell'articolo ne parli di queste cose. Sì, esatto, ma anche io a dire la verità sono così, nel senso che io il fine settimana, dal venerdì fino poi alla domenica sera, non riesco a rilassarmi, perché essendo molto sportiva e amando viaggiare, non sono mai a Torino, che è la mia città, comunque sono sempre via e rilassarmi non riesco mai. E anche in Islanda sono andata e l'ho pizzicato in un ponte, che era il ponte di Carnevale, che noi a scuola avevamo, partendo la prima mattina, diciamo, disponibile di vacanza all'alba e tornando la notte, sapendo che poi il giorno dopo alle 8 sarei stata a scuola. Quindi anche quello non è stato un viaggio rilassante, però l'Islanda è un posto che con la natura immensa, diciamo, che presenta, aiuta molto, perché non si hanno situazioni che noi qua troviamo, di appunto come ho scritto proprio nel sito, non si vedono macchine, non si vedono abitazioni, non si vedono persone per chilometri e chilometri, e quindi alla fine si è da soli con la natura. In tutto questo io ero in un viaggio, come ho scritto, semi-organizzato nel senso che era un viaggio organizzato da Sto Gran Tour, che è un'organizzazione che però organizza viaggi non, diciamo, badando al numero di stelle dell'hotel, quanto al numero di esperienze di vita che si fanno. Quindi è un viaggio, diciamo, un viaggio organizzato, quindi noi non abbiamo dovuto pensare a nulla prima, perché lì avevamo una guida che ci portava, però diciamo in maniera abbastanza alla mano. Quindi anche questa cosa mi ha aiutato molto, perché io, non avendo dovuto prenotare nulla, avevo semplicemente prenotato ad ottobre il viaggio, e poi non mi sono dovuta occupare, stranamente, perché invece solitamente amo organizzare, però sapevo che sarebbe stato un periodo al lavoro molto molto pieno, e quindi non essendomi dovuta organizzare prima il viaggio, sono arrivata lì e mi sono proprio goduta quello che altri avevano organizzato, diciamo, per me. E l'Islanda ti mette assolutamente nella condizione di farlo, perché ha davvero ha dei paesaggi impressionanti, enormi, è impossibile non rilassarsi lì. Cecilia, io sai cosa invece adesso facciamo io e te? Ci rilassiamo un attimo, perché prendiamo un po' di fiato, ci andiamo a ascoltare un po' di pubblicità e poi ritorniamo in diretta ed entriamo proprio nel vivo del racconto del tuo viaggio in Islanda. Cosa ne pensi? Benissimo, va bene. Ok. Viaggia con la mente e scopri non solo turisti.it, il portale dedicato a chi ama viaggiare. Destinazioni, interviste, consigli per chi ama scoprire il mondo. www.nonsoloturisti.it. 19-16 minuti, quella che sentite ridere in sottofondo naturalmente è Cecilia, perché ci siamo messi a chiacchierare, ragazzi, ed è finita la canzone. Cioè, questa canzone dura giusto appunto 2 minuti e 18 secondi, cioè proprio pazzesco, vabbè. Io questa è una chiacchierona, quindi. Infatti, la colpa è sua che si è messa a chiacchierare fuori onda con me, quindi abbiamo perso un po' il tempo, la cognizione del tempo. Cecilia, stavamo appunto parlando di questo tuo viaggio in Islanda, ci abbiamo raccontato un po' come è stata l'organizzazione, ma cosa dobbiamo visitare se ci andiamo in Islanda? Bastano pure pochi giorni, no? Bastano pure pochi giorni, sì, senza dubbio, perché le cose più belle, secondo me, io avevo solo 5 giorni, quindi dovrei tornare per fare più giorni, però le cose più belle secondo me si trovano nel sud, e sono questi ghiacciai e queste cascate che noi non possiamo neanche immaginare, perché sono enormi, e quindi secondo me la cosa più bella è quello, è vedere il confronto fra il mare, l'oceano e a pochi metri un ghiacciaio enorme, grande come la Corsica, che ci si butta dentro. Quindi vai. No, una domanda che tu dici, ci c'è stata quindi nel periodo di carnevale, quindi era febbraio-marzo, perché poi bisogna vedere quale carnevale, perché sì. Infatti. Fine febbraio inizio marzo. Quindi faceva freddo. Quindi faceva freddo, così si dice. A dir la verità, noi abbiamo beccato un momento di abbastanza buono, diciamo, climaticamente parlando. perché non abbiamo avuto tutto questo freddo come ci avevano preventivato. Quindi no, non faceva freddo, dai, si stava bene. Faceva freddo, ma si stava bene. Io avevo paura, io sono molto freddolosa, avevo paura di tornare a casa tutte le sere con i geloni, invece assolutamente no. Però il bello dell'Islanda è proprio che il clima cambia in continuo. C'è un detto, infatti un proverbio islandese molto bello, che dice: se non ti piace il tempo islandese adesso, aspetta 5 minuti. Perché è così, cioè nel giro di mezz'ora passi dalla bufera di neve al sole estivo. E quindi era, è comunque imprevedibile. Noi, a noi è andata abbastanza bene, diciamo. Ma ho notato anche che hai scritto nell'articolo che sei riuscita, anche se eri in comitiva, comunque anche a trovare dei momenti da trascorrere, diciamo, più rilassata, cioè... Beh sì, gli spazi sono talmente grandi che anche se eravamo un gruppo di 18 persone, nel momento in cui si arrivava in un posto c'era un ghiacciaio di fronte a noi immenso, e quindi uno poteva camminare per metri, metri e chilometri senza perdere di vista persino il gruppo. Quindi per quello che dico, la cosa più bella dell'Islanda secondo me è stato proprio questo contatto con la natura, che è qualcosa che ultimamente chi viaggia perde. Io sono una che viaggia molto e spesso rimango affascinata, come dicevo prima, dalle culture, dalle tradizioni, mi piace parlare con le persone locali, però la sensazione e le emozioni che trasmette la natura, anche solo il ghiaccio che si rompe, il rumore del ghiaccio che si rompe, è una cosa che ci siamo un po' dimenticati. E quindi è la cosa che a me ha colpito di più dell'Islanda. Poi hai scritto anche lasciare la macchina e provare a percorrere alcuni pezzi di strada a piedi o in bici. Cioè anche questo mi sa che era interessante, no? Da fare. Sì, perché purtroppo io non l'ho fatto in bici, ma avrei voluto, perché ho degli amici che invece l'hanno girata in bici e mi hanno fatto vedere dei loro video, e è una cosa che in un futuro mi piacerebbe molto fare. E comunque dei pezzi a piedi li abbiamo girati, e di nuovo le strade sono deserte, e quindi uno si rende conto dell'immensità di quei posti e impara proprio ad apprezzare profumi, odori, suoni. È qualcosa che abbiamo dimenticato. Io ho scritto, il primo punto è proprio: visitate Reykjavik se dovete visitarla, come ultima cosa, perché alla fine siamo tutti abituati a visitare città, mentre nessuno è più abituato davvero a stare. È una costante questa dei non solo turisti che dicono, cioè mi è capitato di parlare con altri tuoi colleghi che raccontano dei loro viaggi e ne scrivono, che dicono comunque lasciate da visitare la grande metropoli, la città, comunque alla fine del vostro viaggio godetevi di più la natura, i posti incontaminati, il contatto con le persone, con la gente del luogo. Cioè questa cosa è bellissima, che si riscontra in ogni, quasi in tutti voi che raccontate e parlate di viaggio, e poi in realtà anche rifate questi viaggi, quindi è una cosa che vi accomuna. Sì, senza dubbio, penso che sia, perché tutti alla fine veniamo da, magari non grandi metropoli, ma tutti arriviamo da città o da paesi, quindi veramente lo stress da auto, da traffico e da semaforo direi che l'abbiamo 365 giorni all'anno, se riusciamo almeno quando siamo in vacanza a lasciarlo da parte è una grande cosa. Poi ci sono i faraglioni, i geyser, no? Pure da visitare in Islanda. Sì, vabbè, tutta la costa, quindi faraglioni e spiagge, che poi sono spiagge nere perché tutta, diciamo, terreno lavico, quindi bellissimi, e geyser che di nuovo fanno vedere proprio che la terra è viva, perché senti proprio i movimenti sotto le scarpe, quindi è qualcosa di davvero indescrivibile, perché uno è immerso nella situazione, è come... prima fuori onda parlavamo dell'aurora boreale, uno è immerso nella situazione, nel senso non è guardare una foto o guardare un video, uno vi è dentro a 360 gradi, e quindi sono circostanze che davvero uno sente addosso, quindi i brividi vengono facilmente sulla pelle, diciamo. Cioè, mi è parso di capire anche dal tuo racconto che comunque si percepisce il rumore della natura, anche se non è animata in questo caso, perché sono ghiacciai, sono geyser, non sono esseri viventi, ma comunque che si sente che sono vivi, che sono pulsanti, che si muovono, no? Come hai raccontato tu. Sì. Ed è, secondo me, è una cosa, e tra l'altro è molto istruttivo come viaggio, perché se parliamo di tutti i problemi climatici che stanno venendo fuori in questi ultimi anni, lì si toccano con mano, cioè i ghiacciai che si sciolgono davanti al nostro naso, lì diciamo li vediamo, e quindi sì, no, la natura non è in quel caso lì viva, però a dir la verità la si sente proprio. Mm-hmm. E insegna molto, se uno sa ascoltare insegna molto. Poi a conclusione del tuo articolo parli proprio di come organizzare un viaggio in Islanda, no? Mm-hmm. Quindi, sì, a dir la verità, sì. Dici, dai, ti lascio. No, è che a dir la verità il mio idea di organizzazione di un viaggio in generale, questo poi era un viaggio, come dicevo prima, organizzato e è andato benissimo così, e anzi consiglio per chi non ha tempo veramente di organizzarlo in questo modo qui, però per organizzare secondo me un viaggio, dopo aver preso il volo o aver fissato due o tre punti in cui magari poter dormire, le cose più belle da fare sono quelle, è semplicemente lasciarsi guidare dal proprio istinto, quindi da liberarsi completamente, non per forza voler programmare tutte le tappe, perché le tappe poi più belle sono quelle impreviste o quelli che io chiamerei tra virgolette fuori programma, quindi ciò che non avevamo appunto previsto e che poi capita, e secondo me è quello che rende, che dà pepe al viaggio e che crea i ricordi. Quindi anche solo la corsa sotto, io ho scritto correre sotto una cascata, tra l'altro per chi va in Islanda assolutamente tutto impermeabile, scarponi, qualsiasi cosa, perché capiterà molto spesso sia per il clima che appunto andare in cascate in cui si può passare sotto, ed è qualcosa che magari uno non prevede, non programma, che però poi rende bella l'esperienza. Mm-hmm. No, poi è bellissimo come concludi comunque il tuo racconto, no? Buon viaggio, buona avventura, buona scoperta dell'Islanda e di voi stessi. Ma, cioè, e poi a conclusione di tutto questa splendida foto dell'aurora boreale. Perché è abbastanza emblematica, cioè, nel senso che nel momento in cui dopo, noi tra l'altro l'aurora appunto l'abbiamo vista la terza sera, perché le prime due sere, che era tra l'altro a forza 5, non si è riusciti a vederla perché il cielo era coperto, e poi l'abbiamo vista la terza sera, in cui però era solo forza 3, quindi era anche non troppo intensa, però è stata un'esperienza e un'emozione indescrivibile. Cioè, uno si può preparare quanto vuole a casa, ma poi davvero quello che io chiamo viaggio, quella che chiamo avventura, quello che chiamo scoperta, è proprio poi scoprire come noi reagiamo di fronte a quello che al viaggio, di fronte a ciò che quell'esperienza lì ci dà e ci fa vivere. E in quel caso lì l'aurora boreale per me, il modo in cui io ho reagito, è stato assolutamente un'emozione unica. Anzi, tra l'altro ho proprio parlato con un ragazzo islandese che diceva: non ci gusta vedere le luci del nord quando è sereno, è persino più bello vederlo, scoprirle quando capitano e compaiono all'improvviso tra le nuvole. Ed effettivamente poi l'ultima sera prima di andare via, che era tutto nuvoloso, è comparsa un'aurora boreale che nessuno di noi si aspettava, ed è stata ancora più emozionante perché come è comparsa all'improvviso. Quindi secondo me il viaggio deve essere quello, non deve essere qualcosa di studiato prima e programmato nei minimi particolari, deve essere proprio lasciarsi emozionare, lasciarsi stupire. Cecilia, io non lo so se tu hai altro da aggiungere, se no per me spero di riaverti presto, i tuoi impegni permettendoti a raccontarci ancora qui un altro tuo viaggio. Assolutamente, sì, io non ho niente da aggiungere, se no ringraziare moltissimo te e Marco di Non Solo Turisti per questa grande occasione che mi avete dato. Quindi io invece ringrazio te e ringrazio naturalmente Marco, perché si impegna ogni sabato a portare un Non Solo Turista in diretta qui su Radio Stonata. Cecilia, grazie ancora e ci sentiamo presto. Va bene, grazie mille a voi. Ciao. Arrivederci, ciao a tutti. Viaggia con la mente e scopri nonsoloturisti.it,